ούτε τις στέλνες. Και του με τζε με του με τράει αμίλε αμίλε. Il mister delle notti più belle sentirai nella passione delle mille canzoni. La sottil tropico ardente e magica far la volta del ciel in tanto splendor. Ed ogni bocca fremente sembra donar l'ardore del sol nei baci d'amor sotto il ciel scintillante di stelle. Come le gemme brilleranno le tue pupille, mi dirai le parole più belle e con me più non potrai quella notte scordare. Scintillante di stelle, che come gemme brilleranno le tue pupille, mi dirai le parole più belle, e con me più non potrai quella notte scordare. Ah,